Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi puntata speciale natalizia del nostro programma. Buon Natale innanzitutto. Abbiamo chiamato con noi in studio un giornalista il cui nome non è completamente nuovo agli ascoltatori di Giovani Talenti. Da qualche anno questo reporter racconta le storie di successo degli italiani in Silicon Valley. Lo fa fornendo una prospettiva assolutamente nuova della nostra emigrazione. Racconta infatti come una visione fuori dagli schemi, tanta creatività e intraprendenza italica unita a un contesto favorevole, frutto di un ecosistema fertile, possono produrre risultati straordinari. La vigilia di Natale abbiamo deciso di trascorrerla con Roberto Bonzio, creatore del sito e dell'iniziativa web Italiani di Frontiera, la prima a costruire un ponte tra il bel paese e i suoi emigrati più innovatori. Buon pomeriggio e buon Natale, Roberto. Buona giornata a voi, Sergio. Mi sento un po' come buon Natale, visto l'evento speciale. Incontrare questi italiani di frontiera è stata un'esperienza straordinaria per capire come il loro talento e la loro creatività abbiano un valore eccezionale in campo globale, ma anche per individuare grazie a loro cattive abitudini, luoghi comuni di cui spesso non siamo nemmeno consapevoli, modo di pensare al quale siamo abituati e che invece frena l'innovazione, penalizza il merito e blocca chi sa immaginare il futuro. www.italianidifrontiera.com. Dietro questo indirizzo web c'è Roberto Bonzio, che è qui in studio con noi. Sono un giornalista curioso, scrivi nella tua presentazione online. Brevemente parliamo di te: hai da poco lasciato l'agenzia di stampa internazionale Reuters a Milano, dove per 10 anni ti sei occupato di cronaca, cultura, innovazione e high tech. Alcuni tuoi articoli sono finiti anche su The Guardian, The Independent, The New York Times, The Washington Post, l'inizio al Gazzettino di Venezia. Tu sei infatti originario di Mestre. Allora raccontaci un po' il tuo progetto, Roberto. Ma è partito tutto dall'idea qualche anno fa, 3 anni fa, di fare un'esperienza di famiglia negli Stati Uniti e cercando, ripensando a cosa poter fare, eccetera, da lì è uscita questo progetto di trascorrere appunto 6 mesi in California, a Silicon Valley. E quindi ho fatto tutto da solo. Dico che il web non ti regala nulla, ma ti mette in mano gli strumenti. Sono stati quelli di poter organizzare, pianificare, quindi trovare casa, scuola per i figli, tutti i contatti, e andare per 6 mesi lì a fare il giornalista per un progetto appunto autonomo che è nato incontrando straordinari italiani connazionali sulla frontiera dell'innovazione in Silicon Valley. Quindi ho incontrato figure storiche come Federico Faggini, il padre del microchip, premiato l'anno scorso per questo da Obama, o Roberto Creata, i padri dell'insulina sintetica, oppure giovani imprenditori e manager, penso a Fabrizio Capobianco di Funambul, Marco Marinucci di Google e molti altri. Di loro parleremo tra poco, però andiamo ora sul tuo sito, no? Italiani di Frontiera, qual è il progetto un po' dietro e cosa ci si trova anche cliccando su italianidifrontiera.com? Ma sai, Sergio, dico che molte delle cose che ho fatto a naso, inseguendo semplicemente il filo della mia curiosità, si sono rivelate poi alla fine forse azzeccate o hanno dato una prospettiva diversa. Quindi non sono andato a cercare e raccontare storie di cervelli in fuga, ma ho inseguito il talento, e inseguendo questa strada del talento ho pensato di ricostruire e di riproporre anche storie di italiani di frontiera di ieri, cioè persone che hanno sfidato una frontiera che era sia geografica ma anche frontiera delle idee nel passato. Per cui ho abbinato a queste storie di innovatori di oggi alcune fantastiche storie, molte delle quali ritrovate da un mio amico antropologo dello Smithsonian, storie di italiani del West. Iniziamo subito con la prima, anche per, come dire, introdurre poi gli innovatori, gli esploratori di oggi, i nostri giovani talenti in Silicon Valley. Il primo è Amedeo Peter Giannini. Allora, è stato forse un po' un precursore, no, di questi nostri talenti oggi là? Sicuramente, come sai, ho appena lanciato un progetto, un appello online che si chiama Tornare a Sognare. Credo che sia proprio il filo del mio progetto. Inseguire e capire il talento di italiani di ieri e di oggi è cruciale per capire che cosa poi si deve cambiare in questo paese. Renzo Piano dice che i giovani devono partire, ma non per disperazione, devono partire per conoscere il mondo, ma soprattutto se stessi. È veramente così. Frequentando quella linea della frontiera, conoscendo le persone che lavorano e si sfidano quella linea alla frontiera, si capiscono molte cose del paese da cui si viene. Per cui partiamo con Amedeo Peter Giannini, perché credo che sia stato veramente un ispiratore. Immaginiamo una città in completa rovina, è San Francisco nel 1906 dopo il terremoto, e c'è un italiano che cammina per le strade con un'idea folle, cioè di investire tutto quello che ha in persone che non hanno nessuna garanzia da dargli se non passione e l'energia per ricostruire. Amedeo Peter Giannini, con i soldi con cui ha fondato 2 anni prima la Bank of Italy, la banca che fa prestiti a soltanto gli immigrati italiani, si aggira tra le macerie e decide con quei soldi di ripartire e fare credito a tutti. È un'idea folle per tutti gli altri banchieri, e con questo invece sarà non solo la base della ricostruzione di San Francisco, trasforma un immane disastro in un'immane opportunità e fa qualche cosa di completamente fuori dagli schemi, cioè decide di fare quello che per il mondo delle banche era impossibile semplicemente pensare, e cioè affidare questi soldi a persone che non abbiano altro che l'energia per ricostruire. E nasce Bank of America. E qui è la sua banca, diventerà Bank of America. Nel corso degli anni fa delle cose incredibili, aiuta Chaplin, aiuta Walt Disney, contribuisce a trasformare quell'area nell'orto giardino degli Stati Uniti, perché quella parte della California, oggi Silicon Valley, era invece una sequenza di imprese agricole, quasi tutte immigrati italiani, quasi tutte partite con i soldi di Amedeo Peter Giannini. Poi si scopre, dopo che lui ha aiutato anche la sua patria d'origine con prestiti a tasso zero nell'ambito del piano Marshall, quando muore nel 1949 si scopre che per sé aveva tenuto pochissimo, meno di $500,000, meno di un centesimo di quel che poteva avere, e lui diceva: l'ossessione dei soldi è un grosso problema, è un problema che io non ho mai avuto. Ecco, noi abbiamo parlato di Giannini non a caso, proprio perché in qualche modo lui riflette lo spirito dei tanti italiani, molti sono giovani, che poi l'hanno seguito negli anni, nei decenni, e che ora tuttora si trovano in Silicon Valley e stanno rendendo veramente grande il nome dell'Italia là. E forse, mi permetto di aggiungere, il paragone, la metafora c'è dietro la storia di Giannini, può servire anche all'Italia di oggi, no? Dopo il terremoto, dopo la crisi, la difficoltà, servono persone come lui che credono veramente in una ricostruzione, che sono visionari, innovatori, sognatori. I sognatori e innovatori come il trio di MyShape, Augusto Marietti, che andiamo a sentire subito. Adesso MyShape sta cambiando l'ufficio per la sua terza volta in America, si sta espandendo, stiamo assumendo 20 persone e stiamo crescendo molto velocemente, e speriamo di diventare un giorno una grande azienda. La cosa bella in America è che tutti ti danno una possibilità, no? No matter who you are, tutti ti danno una possibilità e nessuno ti dice che non ce la puoi fare, e questa mentalità, questa cultura del provare, no? Almeno provare, è pazzesco, perché nessuno ti staccherà, ti fermerà, ti bloccherà mai le gambe quando vuoi correre. Se tu decidi di correre, avrai solo persone che ti continueranno a spingere a correre più velocemente. Augusto non è una novità assoluta per Giovani Talenti, è stato ospite insieme ai suoi due colleghi nell'ottobre dello scorso anno. Tra l'altro aggiungo che queste le interviste che ascolteremo poi sono tue, sono realizzate tu direttamente in Silicon Valley. Già abbiamo raccontato la storia di questo trio che è andato in Silicon Valley per sviluppare il suo progetto di portale dei mattoncini del software. Dopo un anno ne è passata di acqua sotto i ponti, e forse è il caso anche di raccontare cosa è successo nel settembre di quest'anno. Ma infatti è una storia che tutti dovrebbero conoscere, anche per via della sua evoluzione, perché è estremamente significativa. Quando ho intervistato Augusto più di un anno fa, la prima volta, giovanissimo, perché ha 23 anni adesso, dopo 2 anni che avevano girato l'Italia cercando di proporre questa loro idea di MyShape, ma trovando soltanto consensi ma non finanziamenti, erano andati negli Stati Uniti facendo il conto alla rovescia, con poche migliaia di dollari in tasca, facendo a batteria tutte le fiere dell'high-tech per presentare questa idea. Ed era impressionante vedere, ci sono alcuni video su YouTube, vedere la carica di questo ragazzo sul palco davanti al Gotha dell'high-tech mondiale. L'anno scorso mi aveva raccontato, appunto, l'avevo intervistato poco dopo che avevano intercettato 3 veterani di YouTube ricevendo $100,000. Quest'anno, lo scorso agosto, sono tornato a Silicon Valley con il primo Italiani di Frontiera Silicon Valley Tour, e quindi ho portato un gruppo di imprenditori e manager a fare questo tour, e nel corso dei vari incontri in aziende eccetera abbiamo fatto un incontro con le startup italiane, e lui è stato un po' la star. Nel corso di questo incontro ha dato una notizia clamorosa, bomba, cioè ha annunciato in pratica che MyShape, che ormai da un anno e passa si sta sviluppando in California, ha ricevuto $1,500,000 da due signori che si chiamano Eric Schmidt di Google e Jeff Bezos di Amazon. Immaginiamoli qui in Italia. Ricordiamo anche che non sono persone che non ti regalano i soldi perché no, sei simpatico, perché sei, che bella idea, ti voglio sostenere, o perché sei italiano, esatto, e un po' esotico, ma perché pensano che la tua idea sia in grado di produrre soldi. Quanto è importante raccontare cose di questo genere e anche pensare un po' a una riflessione su cosa avrebbero potuto anche fare in patria questi ragazzi. Tu quanti ne hai conosciuti di giovani così dinamici, intraprendenti nei tuoi tour, nelle tue escursioni in Silicon Valley? Cioè, quanto ecosistema fertile abbiamo là di giovani talenti? Ne ho trovati veramente molti, e devo dire poi ho incontrato persone anche di tutte le età, giovani e non giovani, quindi devo dire forse giovani nello spirito. Ho trovato persone oltre i 70 anni di uno spirito straordinario da ascoltare a bocca aperta, che hanno sicuramente molto da insegnare in termini di carica e di visione del futuro anche ai giovani qua. E devo dirti che una delle più grandi soddisfazioni di Italiani di Frontiera, che da più di 2 anni ormai gira l'Italia con delle conferenze, seminari, storytelling eccetera, è di continuare a raccogliere storie straordinarie anche di giovani talenti che sono in patria e che meriterebbero spesso molta più visibilità, conoscenza. E la grande opportunità che abbiamo però è di metterli in contatto tra di loro, raccontare loro storie di modelli positivi e questa interconnessione che anche le tecnologie, internet eccetera, ci consentono, quindi la possibilità di fare rete e anche di fare squadra, che è uno dei grossi handicap degli italiani. E un altro giovane talento che ci presenti è Vincenzo De Nicola. Mi chiamo Vincenzo De Nicola, sono il cofondatore e CTO di Pago Mobile, una startup italo-americana basata a San Francisco. Noi ci occupiamo di pagamenti e ordinazioni via smartphone, iPhone, Android, BlackBerry, Windows 7, che permette di pagare e ordinare drinks, cibo, ma anche servizi tramite il proprio smartphone. Quindi in qualunque momento della giornata, mattina, pomeriggio, sera, in qualunque posto vi troviate, potete ordinare e pagare con la nostra applicazione. Roberto, sembra fantascienza, no? Questa imprenditoria italiana in Silicon Valley. Qui sembriamo veramente lontani anni luce. Per quel che riguarda la sua idea, è buffo ricordare che è venuto fuori da una sorta di inconveniente. Erano allo stadio, il suo amico era andato a ordinare delle birre e nel momento in cui è andato a ordinare le birre, Barry Bonds ha fatto il record, un grande campione del baseball americano, aveva fatto il record con un home run, mi pare. E quindi da lì è venuta l'idea, dice, ma accidenti, è possibile che dobbiamo perdere tempo per i pagamenti, per mettersi in coda, eccetera. E da lì è venuta fuori questa idea che credo sia assolutamente proiettata nel futuro, perché è pacifico che useremo sempre meno i contanti e sempre più la tecnologia per pagare anche le cose piccole, anche le piccole consumazioni. Quindi mi pare veramente una piccola grande idea quella di Vincenzo. Ma c'è anche forse un'idea di riconnessione, no, col contesto italiano, e vorremmo introdurre anche in questa puntata, e lo facciamo parlando della storia di Elena Favilli. Sentiamo. My name is Elena Favilli, I'm the CEO of Timbuktu Labs and I'm the editor-in-chief of Timbuktu Magazine. Questa è l'intervista che ha realizzato in inglese con Elena. E Elena ha portato il suo progetto da Berkeley all'Italia, no? Sì, io l'ho intervistata perché faccio anche un blog in inglese per la rivista Forbes che si chiama Out of the Box. Elena è stata forse una delle presentazioni più impressionanti all'ultimo Mind the Bridge. Come forse saprete, Mind the Bridge è questo concorso di idee che seleziona startup italiane che arrivano ad una finale nella sede del Corriere della Sera, in cui poi queste startup si presentano a potenziali investitori italiani e da queste vengono selezionati alcune di loro per fare un roadshow negli Stati Uniti e quindi presentarsi agli investitori americani. Tra le varie presentazioni, forse quella di Elena è quella che mi ha più impressionato. Lei ha studiato a Berkeley e poi ha sviluppato con delle socie questa idea di tutta proiettata nel futuro, cioè scommettere su quella che è la potenzialità dei tablets, quindi iPad, ma dei tablets in generale, nel campo dell'educazione. E quindi proprio per i bambini hanno lanciato con Timbuktu questa rivista di educazione, non solo che è rivolta ai bambini, ma non solo, perché attraverso poi i bambini coinvolge anche genitori ed educatori, scommettendo sul fatto che nel giro di pochi anni già le cifre di previsione adesso indicano una crescita stratosferica dell'uso di questi apparecchi proprio nel campo dell'educazione. Grazie per il momento a Roberto Bonzio, resta ovviamente con noi per la seconda parte del programma. Prima di dare la linea al traffico però rilanciamo una vecchia conoscenza della nostra trasmissione. Apriamo dunque lo spazio Interactive, attraverso il quale potete dire la vostra. La domanda provocazione che ci terrà compagnia fino al 7 gennaio è: 3 idee per far ripartire l'Italia nel 2012 e renderla un paese attrattivo per i giovani talenti italiani e stranieri. Scriveteci le vostre idee e proposte a giovanitalenti@radio24.it. Nelle prossime settimane pubblicheremo online e sul blog della trasmissione le vostre riflessioni. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Oggi puntata speciale e natalizia del programma insieme al giornalista Roberto Bonzio, ideatore del sito web Italiani di Frontiera, uno spazio internet con numerose iniziative collegate che racconta la nostra emigrazione in Silicon Valley, California, sempre più giovane, sempre più qualificata e sempre più composta da giovani che pensano out of the box. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare pare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. L'indimenticabile professore John Keating dell'Attimo Fuggente ci introduce alla seconda parte del nostro dibattito. Roberto, tu sei andato a vedere il mondo da un'angolazione diversa quando ti sei trasferito per un intero semestre, moglie e figli al seguito in Silicon Valley. Allora portaci su questa cattedra. Cosa hai visto guardando l'Italia dalla sopra? Qual è la parola chiave nella quale si riconoscono di se stessi e degli altri italiani che sono a Silicon Valley, appunto gli italiani in California? La parola chiave è think out of the box, la capacità di ragionare fuori dagli schemi. Quanto è importante questa capacità? C'è chi mi ha detto che un software progettato da un italiano si riconosce anche da un particolare aspetto estetico. Chi ha detto che a fronte di una serie di problemi è facile che un ingegnere cinese e un indiano applichino una serie di protocolli e un italiano sceglie una strada diversa. Quanto è importante questo out of the box, questa capacità di ragionare fuori dagli schemi? Io credo che abbia un valore immenso in un mondo che va sempre più verso valori materiali e credo che abbia un valore superiore alle materie prime e anche alla posizione geografica. Per una serie di ragioni culturali del nostro passato, della profondità della nostra cultura, gli italiani hanno questa vocazione che è un bene straordinario. Per una serie di altri motivi culturali, e questo per me è stato cruciale, questo percorso di Silicon Valley per scoprire questi altri meccanismi culturali, abbiamo invece una serie di handicap micidiali ai quali siamo assolutamente assuefatti e che invece dovremmo scalpellare via, cioè di meccanismi ai quali noi siamo rassegnati e che frenano in patria chi è capace di immaginare il futuro e chi ha il talento per sfidare. Uno di questi è quella la definisce, mi piace molto, la sindrome del Palio di Siena. Sì, la sindrome del Palio di Siena è uscita poi tra un'elaborazione, tra lunghi incontri che ho avuto con Federico Faggina, appunto il padre di Microchip, e Luca Cavalli Sforza, genetista che era a Stanford e oggi sta a Milano al San Raffaele. E cioè l'idea suicida di realizzarsi nella sconfitta altrui, no? Nel Palio di Siena tutto sommato si festeggia, hai vinto? No, uno festeggia perché ha perso l'altra contrada, letale. Quanto è diffuso questo? Io penso che tutti nella propria storia di esperienze al lavoro, in condominio, scuola, consiglio di quartiere, siano incappati in questo ideale meccanismo, cioè vedere qualcuno che gioisce della sconfitta altrui senza che questo gli porti nessun giovamento, cioè proprio realizzarsi nella sconfitta altrui. A cosa è dovuto questo? Probabilmente ad una matrice lontana che legata a una mentalità di contrada. Quindi mille campanili. Esatto, ma è l'incapacità di fare squadra e questo è qualche cosa, è un handicap enorme. Roberto, io ti aggiungo il fare squadra e forse anche con questi talenti, questo potenziale enorme di risorse, di ricchezze che abbiamo all'estero, di cui non ci rendiamo conto. Il ponte tra gli italiani del talento all'estero e quelli che sono in patria è il punto cruciale, è il punto di partenza necessario, indispensabile per avviare quella rivoluzione culturale che è veramente quello di cui questo paese ha bisogno. Secondo me non si potrà nemmeno uscire appieno dalla crisi economica se non si avvia questa rivoluzione culturale che rimuove dei meccanismi culturali che costantemente bloccano e frenano quelli che hanno talento. Silicon Valley non è ovviamente non è il paese dei balocchi e non ti regala niente, è semplicemente un sistema che per una serie di ragioni culturali, le origini partono addirittura dalla corsa all'oro e dalla controcultura californiana, è un sistema che appiana gli attriti, cioè tu sai, hai doti particolari eccetera, ok, ti si appianano gli attriti e tu hai la possibilità, se hai doti, capacità, talento, di andare, ti sembra di andare in discesa. In Italia è possibile ovviamente avere successo, ma è successo malgrado un sistema, malgrado una mentalità delle persone che ti stanno a fianco anche sul posto di lavoro eccetera, che sembrano fatte apposta per crearti ostacoli. È un sistema che sembra sempre premiare chi frena, chi vede nella novità o nell'innovazione, nel cambiamento, sempre un pericolo, una minaccia, e invece paese conservatore. Esatto, assolutamente conservatore. Gli stessi modelli, le stesse persone, gli stessi schemi, non si cambia mai e si muore. Esatto, ma quanto abbiamo bisogno di questo? Cioè siamo ricchissimi di questo talento in patria e fuori e abbiamo dei meccanismi che sembrano fatti apposta per penalizzare, non solo premiare gli altri, perché credo che sia il paese che per quelli che sono conservatori, quelli che sono ossequiosi, conformisti eccetera, beh, probabilmente è difficile che trovino condizioni così opportune in altri paesi, cioè è un paese di ben godi non per gli innovatori ma per quelli che frenano, quelli che mettono i bastoni tra le ruote. Roberto, potremmo andare avanti ora a parlare, purtroppo il tempo stringe, però prima di chiudere volevo parlare del tuo manifesto, ne hai già accennato nella prima parte ma ora ti chiedo di spiegarlo un po' meglio. Tornare a sognare. Sono partito proprio dalla storia di Amedeo Pietagiannini e questa sua idea folle di investire tutti i soldi che aveva aveva semplicemente nelle persone che avevano l'energia per ricostruire. Quello che veramente credo manchi al nostro paese per guardare al futuro con ottimismo è proprio questa capacità di sognare. Per sognare non intendo di essere degli ingenui che non hanno ben percepito la realtà, no, è di conoscere prima di tutto quante persone lo stanno facendo e scambiarsi questa idea, cioè quanti sono in grado nel nostro paese di immaginare qualche cosa che non c'è, e questo è lo spirito d'impresa, lavorare e impegnarsi per realizzarlo. Sognare vuol dire anche sognare un paese diverso, quindi con dei valori che sono diversi. Io ne metto alcuni: un paese che è capace di valorizzare i talenti, un paese che è capace di fare squadra nello scambio e nell'interazione. Ce ne sarebbero molte altre cose, una che a me sta molto a cuore: un paese che la smette di sopravvalutare i tromboni e quelli che si danno un tono, e la smette di sottovalutare quelli che invece si presentano in maniera umile ma fanno cose straordinarie. Io dico, quale futuro può avere un paese in cui tutti conoscono una persona come Fabrizio Corona e pochissimi conoscono Fabrizio Capobianco, che a 23 anni girava l'Italia dicendo a tutte le aziende: guardate che il futuro è su internet, e non gli dicevano non è vero, gli dicevano che vuoi sapere tu perché hai 23 anni. Oggi ne ha 40, ha realizzato un'azienda di straordinario successo che è Funambule, questo ponte dagli Stati Uniti dove lui sviluppa marketing e financing, e lo sviluppo dell'azienda come software viene fatto in Italia, ha alle spalle un successo straordinario. Roberto, io ti anticipo gli auguri di Buon Natale, però c'è anche un po' una domanda di rito che faccio a tutti gli ospiti, e cioè: quale consiglio daresti a un giovane che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio, in brevissimo? Sicuramente di intraprendere questa strada, ma pensare di che si va fuori prima di tutto non per disperazione ma per conoscere, come dice appunto Renzo Piano, il resto del mondo ma soprattutto se stessi. Non c'è verso di capire a fondo quali sono i problemi dell'Italia e di essere consapevole di quali straordinarie qualità noi abbiamo e quale straordinarie potenzialità abbiamo in quanto italiani in campo globale se non si va per un periodo all'estero, e bisogna non solo andare per tornare, e tornare con la giusta carica di rabbia per cambiare questo paese. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Stiamo raccogliendo le nuove storie per il 2012 e vi aspettiamo. Finisce qui questa puntata natalizia di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo, puntata di San Silvestro alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un grandissimo augurio di Buon Natale da Sergio Nava. Ciao!